dire di sì, si può dire di no, se a decidere non è il cuore. Si può credere sì, si può scegliere ma rimanendo un po' razionali. Ogni cosa che fai c'è una logica che ti darà sempre le risposte. Puoi imparare così tutto quello che vuoi, inventare il futuro e il presente. Studiare tutte quelle cose che non sai, costellazioni, cieli, mari e nuvole. La vita, l'aria, il corpo umano e la storia di questo mondo. Ma l'amore non si spiega, è un incontro che fa sempre bene anche quando la credere no, imparando dai propri sbagli. Può succedere.